La Luna è doppiata. Gli astronauti puntano ora verso la Terra, lontana ancora 400.000 chilometri. Sulla Terra si comincia a sperare. Ma all'improvviso, nella seconda notte del dramma, l'Apollo 13, ormai rimorchiato soltanto dalla fragile scialuppa chiamata LEM, esce inspiegabilmente di rotta. Il pericolo immediato è che l'odissea nello spazio diventi perenne. L'Apollo 13 sta per perdersi nell'infinito. Alle 5.31 del 16 aprile l'astronave ritorna sulla rotta di salvezza. Ancora una volta il motore dell'EM risponde, non sarà l'ultima. A bordo i tre naufraghi sono tesi, sfiniti. Il freddo aumenta nell'astronave e nelle loro vene. L'aria è quasi irrespirabile. Alle 14.16 del 17 aprile il modulo di servizio che racchiude i motori dell'astronave viene sganciato. È un rottame, è un macello, dice Lovell. Alle 17.43 anche il LEM, la preziosa scialuppa, viene abbandonato. Si chiamava Aquario. Lovell dice addio Aquario e grazie. Così, ad uno, gli astronauti superano i momenti nei quali il disastro era più prevedibile. Rimane, a questo punto della cronaca, l'ultima incertezza. L'urto fiammeggiante con l'atmosfera, il blackout. Mi sembra di aver capito che fra 10 secondi avremo il silenzio delle comunicazioni radio, cercheremo di metterci in contatto attraverso uno dei nostri aerei che ci farà da ponte con la navicella, ha detto Houston. Aspettiamo dunque di risentire la voce degli astronauti. Apollo 13 should be out of blackout at this time. We're standing by for any reports of Araya acquisition. Apollo 13 dovrebbe essere uscito in questo momento dalla zona di blackout, di silenzio. Aspettiamo le prime voci. Coming up now in 3 minutes until time of drogue deployment. Standing by for any reports of acquisition. Ecco la voce di Lovell. Come mi senti, Houston? Vi abbiamo visto. Ecco, è la prima comunicazione, è la conferma che gli astronauti stanno bene. È Jim Lovell, il comandante, che ha comunicato a Houston che lui e i suoi compagni stanno bene. Ora non ci resta che di aspettare di vedere la navicella. Subito dopo Lovell ha parlato Swigert. Il tempo è ottimo. Comunicano da Houston agli astronauti. Le telecamere scrutano il cielo. Ecco l'Apollo. È un'immagine indimenticabile. Un applauso sulla portaerei. Applausi a Houston. Come mi vedi? Chiede Lovell. Molto bene, è magnifico. Dovrebbe mancare un minuto all'amaraggio. 400 metri. Confermato. La navicella amarerà circa 7 km dall'Iwo Jima. 300 metri dalle acque ora. Sta scendendo dolcemente. Circa 150 metri dall'oceano. Eccolo. Ha toccato. È amarata. Sulla portaerei Iwo Jima gli astronauti sorridono appena. Niente discorsi questa volta. La banda intona un motivo da rivista che si chiama Aquario, come il lemma. È la musica del film Odissea nello spazio. Le radio e le televisioni in tutto il mondo hanno così seguito la fine dell'Odissea. Erano in Italia le 19.07 del 17 aprile 1970, venerdì. Dopo il dramma dell'Apollo 13, gli scienziati e i tecnici dovranno rifare molti conti. Dopo l'angoscia, anche le grandi industrie si sono rimesse a fare i conti. L'industria che costruisce il LEM ha mandato a quella che costruisce la capsula una fattura di $400.000 per aver rimorchiato un'astronave in panne.